La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno a tutti, ma soprattutto buongiorno a tutte in questa puntata pre 8 marzo, in questa puntata che noi vogliamo sia una puntata in cui si ricorda la lotta delle donne per l'emancipazione femminile, una lotta che sempre è con noi nella quota rosa e che è oggi in particolare con noi, perché l'emancipazione è una strada lunga e la lotta non è ancora finita. Per parlare di questo, ma anche di una faccenda molto importante che ci riguarda, cioè l'innalzamento, il possibile innalzamento dell'età pensionabile per le donne, noi abbiamo oggi con noi Liliana Cmin, responsabile nazionale del coordinamento delle donne CISL, Alessia Mosca del Partito Democratico, segretaria della Commissione Lavoro Pubblico e Privato, e Maria Teresa Armosino, PDL, membro della Commissione Bilancio. Noi ci colleghiamo subito con Liliana Cmin, responsabile nazionale del coordinamento donne CISL, che si trova a New York, dove ha partecipato alla giornata inaugurale della 53esima sessione della Commissione sulla condizione internazionale delle donne. La lotta quest'anno si fa anche sull'HIV, sulle malattie sessualmente trasmittibili. Che cosa avete puntualizzato, che cosa avete rivelato in questo meeting internazionale, Liliana Cmin? Buongiorno. Allora, sostanzialmente buongiorno, grazie dell'invito a voi. Credo che sostanzialmente ci sia una constatazione sulle difficoltà che le donne affrontano su diversi fronti, a partire dai problemi di salute e di tutte le campagne di prevenzione per la trasmissione delle malattie dell'HIV e non solo, nella condivisione delle responsabilità della cura dei malati dell'HIV, come le donne hanno un ruolo strategico e come le donne poi sono le prime colpite su questo fenomeno, perché vengono comunque coinvolte indirettamente, come dire, era molto emblematico l'esempio di come nei paesi in cui l'incidenza dell'HIV è altissima e spesso le bambine, le giovani bambine rinunciano a studiare per prendersi cura dei malati, quindi hanno una duplice conseguenza in negativo: uno, che sono le principali vittime della trasmissione, perché la violenza sulle donne, gli stupri e quant'altro fa sì che poi sia esteso e diffuso questo fenomeno, e di più la seconda conseguenza negativa è che spesso i malati devono prendersi cura le donne. Da questo sicuramente un aspetto fondamentale della condivisione di responsabilità su questo fronte. In parallelo, ieri c'era la commemorazione dell'8 marzo e c'era dedicato anche l'aspetto della tutela del fenomeno globale della violenza sulle donne. Come appunto la comunità internazionale deve agire in maniera anche globale rispetto a un fenomeno che è trasversale, che tocca non solo i paesi sottosviluppati ma i paesi industrializzati, che copre tutti i ceti sociali. Su questo c'è una particolare attenzione rispetto appunto tutto il legame che negli anni si è fatto rispetto a un'autonomia economica che le donne hanno sempre cercato di sostenere, per poter avere gli strumenti per poter liberarsi dei soprusi e della violenza che a volte sono vittime. Siccome c'è questo legame del rischio dovuto alla crisi finanziaria, la preoccupazione che investe a tutti i paesi è che le conseguenze delle crisi finanziarie possa tagliare i fondi e molti aiuti che i paesi poveri ricevono per la prevenzione e la tutela della violenza, oppure del ripristino dell'autonomia economica attraverso il microcredito e quant'altro. Quindi, certo, insomma, ci sono, posso dire che le conseguenze ci saranno dirette per le donne. Allora, noi ringraziamo Liliana Cmin e la preghiamo di stare con noi per questa parte invece che in cui parliamo e affrontiamo un tema che ci sta molto a cuore, che abbiamo già affrontato, ma che è stato importante durante questa settimana, ed è quello appunto dell'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne. Abbiamo con noi, abbiamo detto, Maria Teresa Armosino, PDL, Alessia Mosca, PD. Vorrei parlare subito con Maria Teresa Armosino, perché quello che ci sembra è che la maggioranza sia abbastanza divisa, mentre c'è Sacconi che anche ieri in Consiglio dei Ministri ha detto che il governo interverrà sulle pensioni per andare incontro ai rilievi dell'Unione Europea e che ci sarà un possibile bozza nel futuro, anche se non esiste ancora, e che questo intervento riguarderà solo ed esclusivamente il settore pubblico. Dall'altra parte c'è Bossi che dice no, le donne devono decidere da loro, c'è uno stop, no? Sull'età, decidano proprio le donne. Allora ci è sembrata che nel Popolo della Libertà non tutti siano d'accordo con questa proposta del ministro Brunetta e del ministro Sacconi. Maria Teresa Armosino. No, è assolutamente vero e non appartiene alle donne negare l'evidenza. Quindi esiste questo problema, che però è solo apparentemente antitetico. Nel senso che va da sé che la via preferibile è quella dell'opzione volontaria. È altrettanto vero che esiste una direttiva europea che colpisce l'Italia perché, a suo dire, nella stessa direttiva, in Italia vi sarebbe una situazione di discriminazione fra l'età pensionabile degli uomini e quello delle donne. Quindi credo che sia compito della politica trovare una soluzione, una formula, poi io dirò anche un mio pensiero se sarà richiesto. Assolutamente sì. No? Prima che si debba invece subire, come inevitabilmente avverrebbe, l'applicazione di una sanzione e per l'effetto di una disposizione non più discutibile. Insomma, noi andiamo incontro alla sanzione dell'Unione Europea, quindi comunque ci dobbiamo muovere, questa è la sostanza, certo. No, Maria Teresa Armosino? Certo. Però bisogna vedere se riusciamo a muoverci in un modo tale che non svantaggi le donne che non sia un modo tale per cui solo e sempre alle donne venga chiesto, e anche male, di farsi carico della soluzione dei problemi di un paese, mettendo noi donne oggi di fronte alla drammaticità di una scelta, perché questo stanno dicendo: vuoi tutelare te stesso o pensare al destino dei tuoi figli? Ecco, questa è la parte di tutta l'argomentazione che poi mi piace di meno, no? per come è posto il problema. Alessia Mosca, Partito Democratico, segretario della Commissione Lavoro Pubblico e Privato, come si può arrivare a evitare la sanzione dell'Unione Europea che dice discrimina gli uomini? In Italia si discriminano gli uomini, questa è bellissima, a me fa sorridere, in Italia si discriminano gli uomini, allora come possiamo evitare di discriminare, poverini, questi uomini tanto bisfrattati nel pubblico impiego? Voglio subito dire, per togliere qualsiasi dubbio, che io non sono una di quelle che è pregiudizialmente contraria ad una ipotesi di rispettare quanto l'Unione Europea ci ha imposto. Quindi io peraltro, essendo un europeista convinta, ritengo che si debba mantenere un profilo di rispetto alle regole che ci vengono in qualche modo indicate dall'Unione Europea. Questo però vorrei che fosse fatto, e che fosse fatto da questo governo in modo coerente, perché l'Unione Europea ci dice questo, però ci dice anche tante cose relative al rispetto di alcuni parametri che riguardano proprio l'occupazione femminile lungo tutto l'arco della vita, riguardano alcuni servizi che vanno ad aiutare la conciliazione del lavoro e della vita familiare che ricade soprattutto sulle spalle delle donne. Quindi la proposta proposta e che avevamo peraltro anche rilanciato in qualche modo quando qualche mese fa Brunetta aveva già proposto di fare alcune modifiche relativamente a questo, era quello: sì, bene, facciamo, noi siamo disponibili a accettare qualche proposta, a condizione però che questo non sia fatto solo per fare cassa, ma sia fatto tutto quello che viene risparmiato eventualmente con l'applicazione di questa proposta venga reinvestito in tutto ciò che serve lungo tutto l'arco della vita alle donne e all'occupazione femminile delle donne. Allora, in questo modo davvero si rispetta l'Unione Europea e quello che l'Unione Europea ci indica come strada da seguire. Non si fa invece gli europeisti alla carta, cioè quando fa comodo si utilizza l'Unione Europea come alibi e invece quando non è conveniente si demonizza l'Unione Europea. Quindi lei dice il governo si è ritrovato tutto un tratto ad essere europeista. Sappiamo che molto spesso il governo di centrodestra è stato contrario all'euro, insomma ci sono state varie discussioni contro Bruxelles e contro anche Strasburgo. Lei dice adesso si sono tutti quanti ritrovati ad essere, questo temete voi, che sia un po' una manovra per far parare i conti e farla pagare alle donne? Ma da un punto di vista di metodo io penso che anche la tempistica sia stata un po' strana, nel senso che si è data questa, è vero che Brunetta aveva già lanciato questa proposta un mese fa mi sembra, però in un momento in cui tutti stanno chiedendo delle risposte ad una crisi che colpisce soprattutto le donne, quindi insomma forse bisognerebbe anche insieme a questa proposta considerare tante richieste che vengono fatte dalle donne stesse e in generale dai lavoratori per cercare di capire come fare, come intervenire, come fare a fare degli interventi strutturali che servano adesso in un momento di grande difficoltà economica e domani quando si spera la difficoltà economica sarà superata e che però ci sarà appunto da far ripartire un'economia nella quale le donne continuano ad essere fortemente penalizzate. La quota rosa. E torniamo a parlare di donne, pensione, età pensionabile. Liliana Ockmin, responsabile nazionale del coordinamento donne CISL, lei si trova a New York, l'abbiamo detto, alla 53esima sessione della Commissione sulla condizione della donna. Abbiamo parlato di quello che sono stati gli argomenti di questo meeting al quale ha partecipato anche la ministra delle pari opportunità Mara Carfagna, ma vogliamo chiederle a lei, che si occupa proprio di donne in un sindacato che ha molti iscritti nel pubblico impiego, che cosa avete intenzione di fare per contrastare questa proposta del governo di innalzamento dell'età pensionabile? Allora, prima cosa innanzitutto credo che mi unisco anche non soltanto per senso del dovere, ma anche perché condivido pienamente la linea che in questi giorni il segretario generale Raffaele Bonanni ha espresso rispetto appunto a questa necessità di confronto su un tavolo ad hoc per poter avere un confronto aperto con le parti sociali. Noi come CISL non demonizziamo il tema. Certo è che siamo consapevoli che se le misure unilaterali il governo le intende prendere, noi non le condividiamo in pieno, dobbiamo essere aperti a un confronto per poter valutare l'insieme delle difficoltà che le donne affrontano. Maria Teresa Armosino, PDL, membro della Commissione Bilancio, il ministro Sacconi dice l'eventuale innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego su base volontaria è da valutare, ma dice comunque non credo sarebbe consentito perché i requisiti devono essere uguali per uomini e per le donne, non essendoci la base volontaria per gli uomini non sarebbe consentito per le donne. E il ministro... Io su questo non sono assolutamente d'accordo. Non è d'accordo col suo ministro, quindi? No, non sono d'accordo con il mio ministro, perché io ritengo che comunque debba essere messo un punto fermo. E cioè le donne hanno storicamente dimostrato di essere le prime ad adattarsi alle nuove situazioni e a saper fare esse per prime sacrifici per l'interesse del paese, che però non si renda analogamente, non si dia analogamente atto alle donne di essere state discriminate nell'accesso a quello che è l'esercizio dei diritti di cittadinanza, perché le condizioni di partenza fra uomini e donne non sono ancora uguali e quelle di percorso non consentono alle donne, per un'inadeguatezza di servizi e quindi per una spesa che è stata molto ridotta nel ridurre le differenze, ecco, che non si riconosca alle donne che sono state vittime di questa situazione, questo mi sembra non corretto. Ma lei se la sentirebbe di rischiare anche una sanzione della Commissione europea? No, io non me la sento di sanzionare una sanzione della Commissione europea, ma per un altro genere di ragioni. Io credo che l'innalzamento dell'età, io non credo innanzitutto che il fatto che si vada 5 anni in pensione prima o si possa andare sia una forma di retribuzione differita, e mi fa molto piacere che non lo pensi la collega Mosca e neanche l'altra nostra amica che è intervenuta, e che quindi ci sia una capacità di esame obiettivo della situazione, ma non sono disponibile come donna a sentirmi addebitare delle cose che invece non vengono affatto rilevate o messe in considerazione quando si fanno rivendicazioni per fatti che davvero esistono. E allora penso che aumentare l'età pensionabile delle donne consenta alle donne anche di andare in pensione con una pensione migliore. Ecco, perché uno dei punti che Sacconi dice molto spesso è che le donne già automaticamente cercano di posticipare un po' l'età pensionabile perché non hanno tutti i contributi allo scadere della loro età, insomma, cioè entrano nel lavoro più tardi perché fanno i figli, poi si ritrovano magari andare in pensione a 60 anni con una pensione misera. E allora è molto corretto l'intervento dell'onorevole Mosca, che dice: noi ragioniamo su questo anche perché ci rendiamo conto che la società è totalmente cambiata e che il modello di sviluppo delle famiglie e delle società non è quello di 50 anni fa, però è corretto dire, ed è corretto credo anche fare un ragionamento in più, siamo in un momento eccezionale, con una situazione economica eccezionale che può richiedere anche delle risposte eccezionali, però io non dico tutta, ma che una parte di queste risorse sia destinata a far sì che non per me, ma per mia nuora, no? che lei stessa possa avere gli stessi diritti, la stessa capacità espressiva che ha mio figlio che è coetaneo, questo mi sembra doveroso. Quindi come se ne esce? Se ne esce con il dialogo che è stato proposto, perché attraverso questo, secondo me, noi riusciremo a darci una normativa che non ci faccia soggiacere a un diktat, e trovando una soluzione che sarà inevitabilmente una soluzione di compromesso, ma la politica e la ricerca di accordi di soluzione. E poi forse chiederei anche un'altra cosa, ma lascino parlare un po' le donne. E certo, e questo è importante. Allora sentiremo anche cosa dirà nel Consiglio dei Ministri quando tornerà da New York, o se è già tornata, che cosa avrà detto la nostra Ministra delle Pari Opportunità Mara Carfagna su questo innalzamento. Dobbiamo anche dire che però il Ministro Sacconi precisa: stiamo cercando di negoziare con la Commissione Europea per mettere in atto una riforma in tempi non brevi, non in una soluzione unica, ma con gradualità. Anna Alessia Mosca, PD, segretario della Commissione Lavoro Pubblico e Privato, vi va bene questa eventuale gradualità, magari cominciare a cambiare le regole, però pian piano? Ma sì, intanto c'è da dire che con le riforme che sono state fatte negli anni passati si arriverebbe nel 2013 comunque ad un innalzamento, anche se non a un'equiparazione dell'età pensionabile, perché si arriverebbe più o meno ad un innalzamento fino ai 62 anni e mezzo. Quindi diciamo, in qualche modo le riforme che sono già vigenti oggi portano ad una quale modifica nel senso indicato dell'Unione Europea. Però detto questo, la cosa importante a mio avviso, e veniva ricordato fortunatamente da tutti gli ospiti di questa trasmissione oggi, e questo mi rincuora, è che si trovino delle soluzioni che non vadano nella direzione di spaccare il paese, le parti sociali, le parti coinvolte, e che ci sia davvero la possibilità di trovare delle soluzioni che diano risposte non solo meccaniche al problema che adesso è sollevato, ma che diano risposte vere alle esigenze nuove della società. E le esigenze nuove sono quelle che venivano già ricordate, delle donne che lavorano, delle giovani mamme che devono che magari hanno delle competenze straordinarie, migliori dei propri compagni o mariti, e che però devono essere loro a rinunciare al lavoro nel momento in cui hanno il primo figlio. Quindi io credo che avere una chiara valutazione della realtà nella quale si deve intervenire aiuta anche a trovare delle soluzioni pragmatiche, non ideologiche, e quindi possa davvero essere un aiuto a evitare che, cioè a dare delle risposte, ad evitare che però ci si trovi a scontrarsi, e quindi lo scontro poi è sempre un modo per non dare delle risposte vere. A questo proposito, se c'è una delle proposte che mi sento avanzare molto concreta, si potrebbe pensare per esempio alla possibilità, al di là appunto di reinvestire quello che viene risparmiato in servizi che aiutino l'occupazione femminile, ma molto concretamente si potrebbe pensare, nella gradualità che immagina Saponi, di individuare una possibilità di detrarre un anno per ogni figlio avuto da una patrice il computo degli anni per la pensione. Questo è un modo, diciamo, per arrivare all'obiettivo con gradualità e per tenere in conto anche il peso maggiore che le donne durante il loro arco della vita devono sostenere nel momento in cui hanno i figli, fin tanto che non ci sarà una effettiva parità di condivisione del lavoro di cura, cosa che appunto purtroppo adesso è ancora tutta sulle spalle delle donne, e che invece però noi dobbiamo fare in modo che diventi una effettiva divisione dei lavori, quindi che anche in famiglia ci sia una parità di condizioni tale per cui anche le donne possano avere una loro vita professionale soddisfacente, certo, e possano anche avere una carriera tanto quanto gli uomini. Ecco. Insomma, comunque lei propone, e sentiremo anche Maria Teresa Armosino a questo proposito, detrazione, come si fa per l'università? 4 anni per l'università ti possono riscattare i contributi universitari, esatto. Lei dice un anno ogni figlio a casa. Per i gemelli 2 anni però, anche per, insomma, se una persona fa i figli, insomma, non i parti, ecco. Allora, una ultima domanda per lei, come passerà l'8 marzo? Per me, sta parlando con me ancora, sì. Io propongo provocatoriamente di abolirlo l'8 marzo, perché io vorrei che si parlasse di donne, di problemi delle donne, del lavoro delle donne, tutti e 365 noi lo facciamo giorni, noi lo facciamo la quota rosa, e infatti voi siete encomiabili, noi lo facciamo. Però, e sappiamo, mi riguarda, l'8 di marzo dovrebbe essere abolito, perché diventa un alibi per parlarne un solo giorno a parte voi. No, ma noi sappiamo che l'8 marzo non è la festa della donna, lo diciamo sempre, è un giorno di commemorazione e di lotta. La strada, come ho detto all'inizio, per l'emancipazione è ancora molto lunga. Onorevole Maria Teresa Armosino, PDL, questa proposta di Alessia Mosca, un molto anno ogni figlio, come l'università, via, l'università si riscatta, e invece qui dovremmo avere un anno di detrazione. Molto intelligente, come al solito viene da una donna, e quindi è una proposta, non è una demagogia. Come passerà l'8 marzo? Qui a Asti, in una fabbrica, sono morte delle operaie, è tradizione trovarci in questo luogo. Quindi un giorno veramente di commemorazione e di lotta. Sì, assolutamente. Quindi lei non condivide un po' la critica di Alessia Mosca che si parla delle donne solo l'8 marzo? L'8 marzo va tenuto come ragione, perché io lo dico in un altro modo, e dico non mimose una volta l'anno, ma l'azzurro non ti scordar di me tutto l'anno, no? E quindi però mi sembra evidente che Alessia lo dice nel senso di affrontare un problema che non è risolto, no? E certo, non è risolto, noi lo sappiamo e lo denunciamo sempre. La quota rosa. E torniamo a parlare anche in questa puntata dedicata all'8 marzo dei problemi delle donne nei paesi islamici. Il nostro non vuole essere assolutamente un je accuse contro i paesi islamici, ma vuole semplicemente fare un punto di quello che succede nei riguardi dell'emancipazione o meno delle donne in questi paesi che sappiamo sono molto diversi tra loro. Per parlare di questo argomento, in vista della nostra commemorazione nel nostro giorno di lotta per l'emancipazione femminile, vale a dire l'8 marzo, abbiamo con noi Sumaya Abdel Kader, fondatrice dell'associazione Giovani Musulmani in Italia e autrice del libro Porto il velo ad Orequin. Buongiorno. Buongiorno. E Rita Cerri, ginecologa volontaria di Emergency con una lunga esperienza in Afghanistan. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io partirei subito da Sumaya Abdel Kader. Lei ha appunto scritto questo libro dove che cosa vuole dimostrare? Che pur portando il velo una donna, questo non vuol dire che è un'assenza di emancipazione? Sì, è voluto essere anche questo. Il libro ha diversi obiettivi, uno dei quali è quello di presentare la donna musulmana sotto una veste nuova che di solito non si conosce, perché spesso è vista secondo gli stereotipi e pregiudizi che ci sono. Invece già dal titolo voglio provocare, voglio dire che si può essere donne musulmane praticanti, quindi facendo scelte anche come quella di portare il velo, ma anche vivere in un contesto che è a maggioranza non musulmana, serenamente facendo le proprie scelte e essere e contribuire. Lei da quant'è che è in Italia? È cresciuta qui? Io sono nata in Italia. Infatti dall'accento, dall'assenza di accento si intuiva. E da genitori di che nazionalità? Sì, i miei genitori sono di nazionalità palestinese. Lei ha scelto di portare il velo, che è una scelta abbastanza particolare, prima di tutto perché appunto il popolo palestinese è sempre stato un popolo molto emancipato, anche la figura della donna, no? Sì. Rispetto ad altri paesi arabi. E perché però questa scelta anche un po', diciamo, conservatrice, ecco? Ma io non l'ho abbracciata come scelta conservatrice, anzi, lì per lì neanche i miei genitori neanche volevano. Però come primo approccio è stata una volontà di sentirmi donna, di sentirmi grande, un po' all'altezza di mia mamma e le donne della mia famiglia. E poi nel tempo è maturata la coscienza più prettamente spirituale, ovvero di devozione e di adorazione nei confronti di Dio. Lei però sa benissimo, come lo so io, che il velo non è solo il velo, spieghiamo sempre alle nostre radioascoltatrici, certo, no? Certo. È coprirsi fino al polso e fino alla caviglia, però potete portare jeans, giusto? Non è quello, il problema è che non ci sono esattamente delle indicazioni sulla stoffa o il colore, eccetera, almeno generalmente dal punto di vista religioso, poi quello che fanno stati, tribù, eccetera, è un'altra cosa. L'indicazione è vestirsi in modo casto, portando un abbigliamento largo, diciamo così, lungo, e il velo in testa fa parte di questo abbigliamento che si chiama hijab. E lei quanti anni ha? Posso chiederlo? Sì, 30. 30. E da quanto è che lo porta il velo? Più o meno da quando avevo 14 anni. Non è mai, a un certo punto non ha mai detto basta, non ce la faccio più, perché poi è una scelta irreversibile, cioè una persona si mette il velo e poi non è che se lo può togliere in teoria. Capita chi a un certo punto non se la sente più, lo toglie, non è una scelta irreversibile, specialmente nei paesi liberi dove il portare il velo è mantenuta come scelta libera. E generalmente chi lo mette con una coscienza, ovviamente non stiamo parlando dei casi di obbligo, è chiaro, ma chi lo fa con coscienza generalmente lo fa come scelta di vita, e quindi per sempre. A me personalmente non è mai passato in tempo in mente di toglierlo o di dubbio nei confronti di questo abbigliamento, che non è solo abbigliamento ma è anche modo di essere, di fare, di comportarsi. Sua mamma lo porta? Sua mamma. Sì, mamma lo porta. E lei si è mai sentita discriminata quando entra in una stanza in Italia dal fatto che è vestita come una donna musulmana con il velo? Quindi magari al velo, come dice lei, c'è la possibilità di mettere jeans, no? Però ha anche in estate la maglietta che arriva fino al polso, quindi magari tutti quanti la guardano? Ma quello sicuramente, mi capita che le persone mi guardino. Certo, questo a me fa piacere, così più persone mi guardano, però generalmente non parlerei di discriminazione, ma di un'attenzione in più, oppure ci sono casi in cui, come la ricerca del lavoro o altre questioni che prevedono un certo standard di donna, certo questo mi svantaggia. Ah, ecco. E lei è sposata? Posso chiederlo? Sì, sono sposata con due bambine. Con un musulmano? Allora, sentiamo anche la testimonianza di Rita Cerri, ginecologa volontaria di Emergency con una lunga esperienza in Afghanistan. In Afghanistan, durante il regime dei talibani, non stiamo parlando di velo, purtroppo stiamo parlando di burka, ed è un'altra cosa, ed è una forma obbligatoria che era imposta alle donne di coprire completamente il volto. Questo non c'è scritto da nessuna parte nel Corano, mi sembra. E che cosa lei, qual è stata la sua esperienza di queste donne che vivono praticamente come se fossero nascoste dal mondo e dalla vita? La loro situazione è un po' questa, anche se appunto ora non c'è un'imposizione, diciamo, vera e propria del burqa, però rimane pur sempre una scelta all'interno di una cultura estremamente arretrata e maschilista in generale, e che tutto sommato comunque è quasi un'acquisizione, diciamo, recente, successiva agli anni della guerra e dei talebani, perché io nella mia attività ho avuto anche la fortuna di lavorare per un breve periodo con una ginecologa di origine afghana che attualmente comunque vive e lavora in America, perché all'avvento dei talebani si è lì trasferita dopo la uccisione del fratello, che mi ha fatto vedere una sua fotografia, oltre a raccontarmi gli eventi di quando lei studiava all'università di Kabul, fine anni 60, primi anni 70, in cui assolutamente non c'era nessuna differenza rispetto a qualunque altro gruppo misto, tra l'altro occidentale. Quindi è stata reintrodotta e in questo momento costituisce, diciamo, per le donne non sicuramente una scelta, forse soprattutto una necessità, vista anche le condizioni di guerra, di violenza che vivono ancora nel paese e che hanno portato un arretramento culturale e sicuramente non favoriscono un'emancipazione femminile. Ecco, lei nella sua esperienza come ginecologa in Afghanistan che cosa ha trovato? Ha trovato magari ragazze che si dovevano sposare e non erano più vergini e quindi questo provocava un problema? Oppure ha trovato delle situazioni anche di igiene, di mancanza di consapevolezza delle malattie sessualmente trasmittibili? Quali sono state le condizioni in cui lei ha operato? Io ho lavorato appunto in una delle... nell'unica maternità di Emergency che è nel nord dell'Afghanistan, in Panjshir. Quindi già è un buon osservatorio, anche se limitato. Innanzitutto ho lavorato lì perché le donne afghane possono essere visitate solo da personale femminile, quindi anche solo medici, solo ginecologhe di sesso femminile. Ed è l'unico ambiente lavorativo dove il personale è tutto femminile. Allora, questo già ci dice che in qualunque attività lavorativa sono tutti uomini. Prenda anche il resto dell'ospedale, per esempio le cucine, i cuochi, gli inservienti, quelli delle pulizie, sono tutti uomini, ad eccezione del reparto di maternità. Le donne che accedono vengono accompagnate all'ospedale sempre da membri maschili della famiglia. All'ingresso nel reparto è il familiare, il marito, il fratello del marito, chi detiene il potere in famiglia, che dà il consenso per qualsiasi intervento venga operato sul corpo della donna. Non si chiede il consenso alla donna, si chiede il consenso all'uomo. L'altra cosa, una cosa invece positiva all'interno degli ospedali è che all'interno degli ospedali di emergency è vietato vestire il burqa, quindi tutte le donne lo lasciano alla portineria, anche se la divisa ospedaliera poi prevede di portare un velo, quindi di avere sempre il capo coperto. Sì, ma abbiamo detto che sono due cose diverse, anche il velo non è obbligatorio nella religione islamica, è una scelta, no? L'abbiamo sentito da Sumaya. Questo come costume, semplicemente. Cioè, il burqa è una forma di schiavitù, perché noi dobbiamo anche dire le cose come stanno. Il velo, come l'ha scelto Sumaya, è una forma di libertà. Alle volte, purtroppo, anche quello è imposto nei paesi islamici e diviene una forma di schiavitù. Però il burqa, non ci sono dubbi che sia una forma di schiavitù. Mi scusi, questa è un'opinione personale, però le cose bisogna dirle. Però sul fatto che sia una forma di schiavitù possiamo essere d'accordo, però io personalmente devo dire, dopo aver visto come vivono e soprattutto come muoiono queste persone nell'indifferenza di tutti, sarei molto più contenta se facesse più scandalo il fatto che una donna ha una prospettiva di vita di 44 anni, che ha una possibilità su 21 nella sua vita, mentre nell'Occidente ha una possibilità su 1800 di morire di parto. Nel fatto che non hanno diritto all'istruzione, non hanno diritto ad assistenza sanitaria, non hanno diritto ad alimentarsi in maniera sufficiente, questi sono secondo me scandali ben prossimi dell'imposizione del burqa e che vanno strettamente di pari passo con il discorso. No, no, ma infatti il burqa è una vetrina per denunciare una sperequazione. Siccome siamo in chiusura, le chiederei rapidamente quello che lei appunto ha trovato, se è riuscita nella sua opera anche di istruire queste donne. Quello che voglio sottolineare sono donne, come tutte qui, come nel resto del mondo, piano esigenze, certi elementi di femminilità sono secondo me universali. In particolare quello che ho trovato io sono persone estremamente vivaci intellettualmente e che incominciano a lottare per la loro emancipazione. Certo, il percorso sarà lungo, però secondo me quando noi parliamo di queste realtà che sembrano così lontane, dimentichiamo il passato prossimo che abbiamo vissuto noi stesse. Io stessa ho 54 anni, ma io nella mia gioventù ho dovuto lottare duramente, sono stata fortunata che c'erano i primi movimenti delle donne, collettivi, ma per la mia libertà personale, individuale, per l'affermazione dei miei diritti di persona, di sesso femminile. Ma certo, questo è ovvio, e noi siamo qui alla Quota Rosa sempre per lottare nell'Occidente, nell'Oriente, nell'Islam. Io vorrei chiudere però con Sumaya Abdelkader, con una nota di ottimismo. Lei ama i Queen, adora i Queen, allora lei ci deve dire qual è la canzone preferita. Sono tante a dire il vero, un po' dalle classiche come The Show Must Go On o Innuendo. Innuendo è una di quelle che mi piacciono molto. La Quota Rosa. Non sentirete niente che non avete sentito prima. Non vedrete niente che non avete visto prima, non sentirete niente di quello che sentite sempre, non vedrete niente di quello che vedete sempre. Sentirete quello che solitamente vedete, sentirete quello che solitamente non vedete. Non vedrete niente di teatrale, la vostra curiosità non sarà soddisfatta, non vedrete uno spettacolo. Stasera qui non si fa spettacolo. Voi vi aspettavate qualcosa, vi aspettavate qualcos'altro forse, vi aspettavate un'atmosfera, vi aspettavate un luogo diverso. In ogni caso vi aspettavate qualcosa. Può darsi il caso che vi aspettaste quello che state ascoltando adesso, ma anche in quel caso vi aspettavate qualcosa di diverso. E abbiamo sentito Roberta Bosetti, autrice dello spettacolo The Secret Room, domani 8 marzo a Torino. Roberta Bosetti, buongiorno, questo è l'inizio del suo spettacolo, quindi che cosa bisogna aspettarsi da questo spettacolo? Beh, bisogna aspettarsi innanzitutto un'atmosfera molto intima, sono 7 spettatori a sera in un appartamento che vengono invitati a una cena, spettatori che noi chiamiamo spettatori ospiti, quindi noi crediamo che sia interessante abbattere o perlomeno mettere in discussione le barriere che di solito dividono l'attore dallo spettatore, quindi metterli tutti nello stesso spazio. E qualcosa di particolare succede ogni sera. Lei che cosa fa? Prepara una cena e sì. dove si svolge questa performance? Non in un teatro, quindi? No, sempre nella casa in cui viviamo Ormai sono tantissime, perché lo spettacolo è iniziato nel 2000 a Melbourne, quindi ormai abbiamo superato le 1200 repliche e l'abbiamo fatto un po' in tutto il mondo, sia in inglese che in italiano e dall'anno scorso anche in francese. E sono, diciamo che noi facciamo sempre il lavoro nello spazio in cui realmente viviamo, quindi nella casa in cui viviamo, e in questo caso è a Torino. Abbiamo deciso di rimanere per un anno a Torino, di fare un lungo progetto qui, e abbiamo un appartamento in centro in cui si svolgeranno anche queste cene spettacolo. Quindi lei parla, noi siete il gruppo di attrici. Noi, io e Renato Cuocolo, che è il fondatore della compagnia Era Theater e che è l'ideatore insieme a me di questo spettacolo. Quanti attori, attrici ci sono? Soltanto io. Quindi soltanto lei? Sì, gli ospiti, il pubblico incontrano solo me. E di che cosa parla lo spettacolo? Beh, diciamo che ha un'atmosfera abbastanza oscura, abbastanza The Secret Room, no? La stanza, sì, segreta, esatto. Non potrebbe essere altrimenti. Quindi parla di una rivelazione che viene fatta al pubblico da parte dell'attrice personaggio, una rivelazione sul proprio passato familiare, possiamo dire così, così la stanza segreta è un po' il luogo più intimo, più isolato, dove ciò che doveva rimanere segreto viene rivelato. Parla anche di quanto ci sia di non addomesticabile nella domesticità del familiare e della casa, quindi quella che sembra un'apparenza rispettabile, tranquilla e serena può nascondere, e penso che sia in misura maggiore o minore l'esperienza un po' di tutti, nascondere qualcosa di più torbido, di più inquietante. Perché lei lo fa domani 8 marzo? Beh, la festa della donna, per cui ci è sembrata una data, fra l'altro è già successo che in altri paesi, insomma, ci è successo già di debuttare in questa data, e siccome qui in questo caso il tema della donna e della casa, anche della casa come luogo di confinamento della donna e delle regole che di solito sono applicate sia alla vita familiare sia appunto al femminile, è abbastanza importante, mi è sembrata una buona data per cominciare. Quanti personaggi? Ha detto 7 spettatori, e preparate una cena, e quanto costa partecipare a questo spettacolo? A chi ci si può rivolgere? Sì, allora costa 25 euro e bisogna comporre un numero telefonico che, se vuole, posso... Non c'è un sito? Posso dire, sì, c'è anche il sito, che è www.iratheater.com.au come Australia. Cosa si serve a cena? Sì, in the secret room. Cibi dell'infanzia. Nel senso, cose molto semplici, la cena è tematicamente legata allo spettacolo ed è parte integrante, quindi non è un piatto, ci dica un piatto dal punto di vista gastronomico. Sì, sì, no, ma per curiosità, un piatto? Sì, sì, sono cibi dell'infanzia, nel senso cose che veramente mi capitava di mangiare da piccolo, se vuole... Tipo pasta a burro al parmigiano, no? È una cosa, sì, esatto, una cosa del genere, pastina al burro e parmigiano, pomodoro, e poi il pesce finto, che non so se qualcuno conosce, ma che è un pasticcio di patate, tonno sì, e sì, sì, e sì, il patatonno. Esatto. Allora, io un attimo la tengo con noi, ma abbiamo, lei ci racconta la vita della donna dentro la casa attraverso questo spettacolo The Secret Room, mentre Edoardo Dell'Acqua, responsabile eventi cinema dell'Aquila, ha inventato il cinemamme. Che vuol dire il cinemamme? Le mamme possono sempre andare al cinema con i bambini? Ebbene no, però nel senso che non è facile con un neonato. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Il nuovo cinema Aquila, questa è la dizione esatta del nostro cinema, che però sta a Roma, nonostante l'Aquila. Ah, non sta praticamente... No, siamo a Roma al Pigneto. E, cinemamme perché le mamme con un neonato, che quindi normalmente non riescono ad andare al cinema perché il bambino piange, perché il bambino ha bisogno di uscire, perché servirebbe una serie di facilitazioni in sala, carrozzine, fasciatoie, eccetera, Da noi possono venire al cinema perché trovano tutto questo, trovano il volume basso, trovano una serie di film di prima visione, ma selezionati per il loro contenuto e il loro impatto sul pubblico, trovano appunto il fasciatoio, trovano il cibo biberon. Dell'infanzia, esatto, biberon, latte, plasmone, sciacqua, ciucci. Insomma, tutto, ho capito, quindi è destinato, è dedicato a delle mamme che hanno dei neonati praticamente. 0,24 è la fascia che ci siamo dati, che non è giornaliera, su scala mensile. Sì, quando si può, allora, Cinema Aquila al Pigneto a Roma, esatto. Da che ora a che ora? Tipo dalle 3 alle 7, immagino pomeridiano? No, è la mattina, dalle 11.30 fino a quando finisce il film. Finito il film, poi nel nostro foyer allestiamo la caffetteria delle cinemamme, per cui tisane, finocchio, e sempre scalda di biberon, fasciatoio, eccetera, due chiacchiere sulla crema Fissan e poi si torna a casa. Sta avendo successo questa iniziativa, e quanto costa il biglietto? Allora, il biglietto è 3 euro, oggi abbiamo adesso in corso la prima proiezione, abbiamo due sale piene, il successo è tanto, il buffet è andato completamente svuotato, per cui insomma diciamo gli elementi per sperare bene anche per tutto il ciclo ci sono, e sarà poi un laboratorio, sono 2 mesi di sperimentazione per far partire l'iniziativa per bene la prossima stagione, in modo che copra su 2 fasce orarie, mattina e pomeriggio, tutta la stagione cinematografica. E speriamo allora che anche nel resto d'Italia seguano il Cinema Aquila al Pigneto a Roma, e ringraziamo Roberta Bosetti, autrice dello spettacolo The Secret Room, da domani 8 marzo a Torino, Edoardo Dell'Acqua, appunto responsabile eventi del Cinema dell'Aquila di Roma. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a laquotarosa@radio24.it. Un buon 8 marzo a tutte quante voi.